se pensavo di averlo. A volte ci ho pensato, sai, ed ogni cosa pesa un po' di più di quel che ricordi. Inoltre ciò che mi spinge là non riesco a decifrare, ma anche se indietro non si torna più. Why?